sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Possono esistere tante forme di rappresentazione dell'universo femminile. Ognuna ne ha una propria personalissima forma di immaginare e classificare le donne. Già capisco e già anticipo l'accusa di fare una trasmissione soltanto da un punto di vista maschile. Potrebbe anche essere così, ma potrebbe anche non essere così. Questa mattina vorrei incasellare il genere femminile in tante meravigliose ed ironiche categorie. Perché guardare la donna con ironia probabilmente è l'esorcismo più forte e più potente che può fare un uomo per annullare il terrore, il paure, la paura, l'apprensione che mette nell'animo il contatto con una donna. Anche il più spavaldo, anche il più intraprendente, forse anche il più ottuso dei frequentatori di donne a scopo di piacere, di soddisfazione personale, di egocentrismo, di narcisismo esasperato, ha comunque un sottile e tremebondo senso di riverenza nei confronti anche dell'oggetto della propria effrazione, della propria distruzione emotiva. Beh, questa mattina vorrei classificare le donne attraverso le categorie femminili espresse dal fumetto. Guardate che il fumetto erroneamente viene considerata come una sorta di attività ludica, una espressione e una metodologia di racconto destinata soltanto alla fanciullezza, massimo all'adolescenza. Questa è una visione molto nazionale, molto limitata, molto legata a pregiudizi, molto legata a un senso di rigore. La cultura si fa sui libri, non leggete quegli inutili fumetti. Io sono cresciuto con questa frase: butta via quegli inutili fumetti, butta via Diabolik. Diano sempre Diabolik sbagliando anche l'accento, perché erano i primi accenni di uscita dal rango di piccole scempiaggini destinate a una sorta di lallazione visiva da parte dei ragazzini e un racconto concreto della realtà attraverso l'attività espressiva del fumetto. Beh, nei fumetti esistono, anche nei fumetti italiani, anche quelli che abbiamo avuto in mano noi, un'infinità di categorie femminili, tutte diversamente rappresentate, tutte variegatamente rappresentative di femmine realmente esistenti. Io posso fare tre grandi filoni, poi avremo degli esperti che ci daranno delle ulteriori delucidazioni. La prima categoria è quella dei fumetti della Disney, che erano quelli più usati dalla categoria, dalla classe delle persone che più o meno hanno la mia età, quarantenni, cinquantenni. Quindi erano le innocue paperine, Minnie, nonne papere, personaggi in fondo rassicuranti, dove anche la civetteria, dove l'arguzia e la seduzione femminile al massimo si limitavano a un fiocco in testa o delle scarpe con i tacchi di tre numeri più grossi, come nel caso di Minnie. C'erano alcune maliarde, alcune rubacuori, alcune femmine pericolose, soprattutto nella retrospettiva fanciullezza di zio Paperone, quando andava a fare il cercatore d'oro. C'era sempre una sciantosa, poi ritrovava sempre vecchietta. Erano fumetti molto regolari. Poi si cominciò a passare ai fumetti di altro tipo. C'era la femmina pelle rosse, moglie di Tex, sfigatissima, muore subito. Si ingravida, fa un figlio e muore. Però lui rimarrà casto eternamente nel ricordo di questa donna. Poi io ricordo il grande Black e Zagor, che in realtà secondo me non è che gli piacessero poi tanto le donne, boh, stanno sempre fra maschi. C'era sì qualche donna che appariva così, ma era sempre molto poco dotata di speranze di conquista. Capita a Mickey, poi non ne parliamo, è una sorta di Efebo lì. Le donne erano molto distanti dal suo immaginario. Poi vennero i favolosi anni 70 e 80 e cominciammo a vedere le donne nei fumetti. E che donne, erano donne che mai ci saremmo immaginato che esistessero, e mai nella vita le abbiamo mai incontrate. Erano le famose Iacula, erano le famose principesse, eroine, sadiche incantatrici, concubine eterne. Erano le poppute ipertrofiche signore dei fumetti sexy soft, che furono le prime categorie di iniziazione ai misteri femminili e la prima radicale ragione di calo delle diottrie nella nostra apparato fisiologico già allora cedevole. Poi andando avanti ci elaborammo, cominciarono ad arrivare Linus, cominciarono ad arrivare fare i fumetti più impegnati e cominciamo a vedere altri tipi di donne, Valentina di Crepax, che andava molto di moda negli anni 60, mai ispirato un granché, devo dire, ma mia personalissima lettura, per molti anche Valentina è stato esempio di grande consunzione di bulbi oculari. E poi, andando avanti ancora, finalmente sono arrivati i manga con delle riproposizioni di femmine molto lontane dal nostro immaginario. Il nostro immaginario è canuto e vetusto, molto vicino all'immaginario dei nostri figli. I nostri figli hanno delle classificazioni di categorie femminili che non appartengono alla nostra esperienza, appartengono alla loro, perché appartengono ormai a un genere femminile fumettistico che va parte di una cultura fatta di apparati tecnologici, fatta di videogame, fatta di tutto un insieme di altri apparati, appendici del fantastico, che noi abbiamo acquisito soltanto con un grande sforzo dovuto alla nostra veneranda età. Signorina Paperina, mi dica esattamente qual è il suo problema. Ecco, dottore, sono venuta a parlarle del mio fidanzato, Paperino. La prego, signorina. Vede, uno splendido giorno di primavera, Paperino, stavamo passeggiando nel parco e alla finestra del 90° piano di un altissimo palazzo c'era un bellissimo fiore in un vaso. Il vaso cadde dal davanzale e precipitò come un missile proprio sulla testa del mio fidanzato. Nient'altro che conti da pagare. Dove li troverò i soldi per comprare un regalo a Topolino? (800) 24 0024, iniziate a raccontarmi, come se foste in uno stato di trance, quali sono le femmine dei fumetti che maggiormente hanno ispirato la vostra fanciullezza, la vostra adolescenza, che ancora oggi vi ispirano. Jessica Rabbit dice: non sono io che sono cattiva, ma mi hanno disegnata così. È in fondo quello che noi diciamo ogni volta che perdoniamo qualcosa a una donna. Immaginiamo che fosse un fumetto, immaginiamo che qualcuno l'abbia disegnata, immaginiamo che non sia colpevole di ciò che ci fa soffrire, patire, immaginare, sognare, di ciò che ci corrompe e ci dissolve. Ma probabilmente nelle donne dei fumetti esiste un imprinting forte che segna anche la vostra esistenza femminile. In quale donne dei fumetti vi sentite rappresentate, in quale vorreste essere, in quale vi hanno molte volte classificato? Io chiamo mia moglie Minnie, ma non so manco bene perché. Quel collier ti stava incanto. È un gioiello di rara bellezza. E non esiste collo più bello e adatto per indossarlo. Se la sua bellezza è rara, la tua è unica. Non ti dimentichi mai del nostro anniversario. E come potrei? Quel giorno con te non ho incontrato solo una compagna, ma una vera e propria ragione di vita. Mi ricordo come fosse oggi quando ci siamo incontrati per la prima volta. Il eri venuto per rubare il dialogo fra Diabolik e Eva Kant. Oggi chi ancora legge Diabolik, l'immancabile appendice al nostro immaginario più nero, partorita dalla fantasia di due sorelle Giussani, due brave ragazze di ottima famiglia, sportive, poliglotte e aperte al mondo, che a un certo punto della loro vita si misero a descrivere i racconti di questo rapinatore, malfattore, bello, dagli occhi bellissimi, questa donna affascinante, sempre con le calzamaglie nere. Nei primi tempi, e il primo parto reale della fantasia dei Giussani, erano anche due spietati assassini. Usavano coltello e veleno, poi andando avanti, il politicamente corretto edulcorò anche la capacità di crudele e meraviglioso idillio criminale di Eva Kant e Diabolik. Adesso si limitano semplicemente a lanciare dardi soporiferi. Abbiamo al telefono Sara Zanatta. Sara Zanatta, buongiorno. Buongiorno a voi. Io mi sono permesso di fare una mia personalissima, del tutto irrituale, ma basata su ricordi concreti e carnali, descrizione delle mie donne nel fumetto. Ma lei, Sara Zanatta, è una ricercatrice in sociologia all'Università di Trento, è autrice del libro Le donne nel fumetto, edizione Tunuè. È appena uscito, scritto assieme a altre due sue colleghe, Samantha Zaghini e Eleonora Guzzetta. Voi avete analizzato con un intento veramente ammirevole le femmine del fumetto, non soltanto italiano, ma penso anche nel fumetto internazionale. Rispetto alla mia introduzione, ai miei ricordi scomposti, donne del fumetto, cosa ha da aggiungere per introdurre l'argomento? Direi che la cavalcata che ha fatto è stata assolutamente azzeccata, insomma. Perché beh, poi uno si sforza a farle azzeccate. La cosa bella dei fumetti è proprio questo gioco di rimandi con la realtà per scoprire, con l'accumulazione o il mettere in fila dei personaggi, quello che è stato un po' il cambiamento del costume del nostro paese. E quindi direi che il cambiamento che ha investito i personaggi femminili nel fumetto è proprio stato un cambiamento nella definizione dei ruoli e nella caratterizzazione dei personaggi, in una sorta di trasgressione progressiva a quello che poteva essere il mainstream dell'essere donna. Cioè, lei prima ha fatto riferimento ad una serie di personaggi rassicuranti e innocui, come appunto Minnie, Paperina, ma anche Olivia di Braccio di Ferro e tantissime altre coprimarie degli sì, anni 40. Tutto era basato, anche le coprimarie ponelliane. In quei tempi tutto era basato su una sorta di rapporto di rivalità. Il legittimo detentore dell'affetto di questa donna, Olivia, Paperina, Minnie, doveva sempre scontrarsi con un rivale. La donna era la preda eternamente civetta, si metteva sempre a disposizione e vinceva sempre il nostro eroe, naturalmente. Questo era il massimo del palpito che ci dava, capito? Esattamente. E invece direi che la vera rottura è avvenuta con i primi anni 60, insomma, ne ha fatto riferimento anche lei. È lì che un po' il fumetto perde la sua innocenza, ma perché cambia di fatto anche in parte il suo pubblico di riferimento. Quindi nasce quello che con un termine molto generale viene chiamato fumetto per adulti, ed è un grande calderone in cui finiscono storie molto diverse, a partire da Valentina ed Eva Kant, che sono sicuramente le donne di carta del nostro fumetto più famose. Cioè, io quando mi trovo appunto a parlare di questa ricerca, di questo lavoro, tutti, anche quelli che sono un po' più a bocca asciutta di fumetto, mi dicono: ah, ma quindi Valentina ed Eva Kant? Perché effettivamente sono i primi prototipi di eroina a tutto tondo, in modo assolutamente diverso. Io invece amo tantissimo Valentina di Crepax, perché è un personaggio assolutamente complesso, ed è un personaggio che io non riesco ad inserire nel fumetto porno soft a cui poi ha dato effettivamente avvio. Beh, tra Valentina e Iacula c'è un abisso, se posso permettermi. Infatti. Esatto, cioè in Valentina c'è un'emancipazione totale e c'è un vissuto che viene raccontato direttamente nel fumetto, quindi è, credo, l'unico personaggio, almeno a mia memoria, ad avere una carta d'identità, quindi ad avere una data di nascita, un segno zodiacale e ad avere un vissuto chiaro. Cioè, rimane orfana molto giovane, quindi è costretta a trovarsi un lavoro, è affermata nella sua professione, e non dimentichiamo un aspetto importantissimo, che strappa di fatto la testata e la striscia al suo compagno, che originariamente era il protagonista delle strisce. Aveva argomenti molto più solidi. C'è questo aspetto poi psicanalitico, onirico, fantastico, che è continuamente in una sorta di zona liminare tra sogno e realtà, che rendeva un po' confuso. Diciamo, l'approccio che ebbi io con Valentina era un approccio molto infantile, adolescenziale, quindi cercavamo realtà un po' meno sfumate. Era molto ben disegnata, molto complessa, ma le storie, perlomeno per un ragazzo, erano difficili essere comprese. Le altre erano molto più basiche, anzi non c'erano storie in realtà. Sì, non c'erano storie, non c'erano neanche personaggi in qualche modo. Cioè, era un erotismo non tanto legato alla fidelizzazione del personaggio, ma alla tematica, tanto che da un certo punto in poi iniziarono ad uscire testate tematiche, penso, che ne so, a Vampirissimo. Sì. Quindi ad indicare che proprio il personaggio perdeva di consistenza e perdeva di valore. Io però vorrei tornare un attimo sull'altro personaggio che lei aveva citato, perché è fondamentale. Per la prima volta una donna assume un ruolo, diciamo, malvagio, cattivo, ma allo stesso tempo affascinante, esattamente quello che i nostri genitori, i nostri nonni dicevano: un pessimo esempio. Tu sei la prima donna che sa che questo è il vero volto di Diabolik. Forse sto per commettere l'errore più grave della mia vita, ma tu sei la donna più bella e affascinante che abbia mai incontrato. E io amo il rischio e il pericolo. Anch'io. Ecco, Eva Kant. Eva Kant, nella sua algida e perfetta bellezza, anche lei, sia nelle forme fisiche che nel trucco, nel taglio dei capelli, era più o meno coeva di Valentina, anche se con una minore una minore raffinatezza, era mutevole, scambiava continuamente, si travestiva, metteva le maschere di gomma per cambiare faccia, ma era praticamente la tutina nera aderente la sua arma di battaglia preferita. Certo. E diciamo che Eva Kant è una coprimaria non coprimaria, ecco, rispetto alle donne che abbiamo citato prima, compagne dell'eroe, se ne distanzia completamente. Lei salva la vita di Abolic più volte. Esattamente, e si emancipa quasi immediatamente da lui, nel senso che porta a termine anche i colpi da sola, le saranno dedicate anche delle tavole da sola che recentemente sono state riproposte in volume, erano uscite su Cosmopolitan, disegnate da Alessandrini e Castelli, che poi passano alla Bonelli, e Eva Kant in realtà è un personaggio molto bello dal punto di vista criminale, ma è un personaggio che lascia grandi punti di domanda dal punto di vista sentimentale, perché poi in realtà i due sembrano sublimare. Sì, è un po' figa di legno, diciamo la verità. È bella, sì, ma è abbastanza freddina. E lui è molto, molto attento, molto, molto romantico, molto. Io l'ho vista sempre molto gelida. Eva Kant, diciamo, piace a quelli a cui piace un certo tipo di donna, un po' dominatrice, un po' lontana, un po' gelida e un po' crudele. Ma sentiamo intanto qualche ascoltatore, cominciano a venire le prime esperienze personali. Roberto. Buongiorno. Si trova in un immaginario a lei vicino? No, direi che sono d'accordo con lei quando parla appunto di Valentina, di Fairfax. Anch'io sono un vecchio lettore partito da Tom Mix, da Black Machine, da Zagor, da Tex, tantissime Alan Ford. In cui le donne sono molto marginali, diciamo la verità. Appunto, della mia generazione le donne, ecco, le più diciamo sofisticate, che appunto oltre ai vacanti ci piacevano tanto, era Satanic per esempio. Erano donne che incuriosivano ma che non facevano vedere nulla, ma che erano tutte relegate in un immaginario personale che riguardava il fumetto, la fantasia. Satanic era il contrasto in quello che era quando non prendeva appunto la medicina per essere giovane, e quando diventava scheletro, mummia, era terrificante. Però rientrava sempre in un concetto di estrema fantasia, mentre Crepax, per la mia generazione, almeno per me, riguarda più quasi una realtà vera, un qualche cosa che ti riporta un po' in canoni che al mio tempo non esistevano nemmeno. Ancora oggi io rileggo i fumetti vecchissimi, tipo Asterix o altre cose, perché quella è la fantasia del fumetto, quello è il mondo in cui vivo da ragazzo e che ancora mi fa sognare. Sentiamo Maurizio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Volevo soltanto dire che secondo il mio punto di vista è stata saltata completamente una categoria di eroine dei fumetti. Integriamo quello che ho detto allora. Sì, certo. Sostanzialmente tutta la parte diciamo dei fumetti americani dell'immediato prima di guerra e del dopoguerra, faccio ad esempio riferimento a Rip Kirby di Alex Raymond, sì, dove certo. C'erano delle donne bellissime, vestite in maniera perfetta e che non erano tanto comprimarie. Anche Dale Arden e la principessa degli uomini gialli di Alex Raymond, di Gordon, non era male. Esattamente, ma già lì era forse una funzione più comprimaria, mentre già in Rip Kirby c'erano addirittura delle eroine negative, assassine o quant'altro, che già davano un'immagine completamente diversa della donna e che secondo me fanno un po' da ponte fra le donne diciamo dei fumetti della Walt Disney e le donne successive che verranno poi, compresa anche Valentina. Quindi c'è un po' un trade union attraverso questa categoria di donne che cominciano ad essere molto più reali e molto più vicine al mondo della realtà che non del fumetto vero e proprio. Manfredo, per concludere questo primo passata di telefonate, poi passiamo la linea e Sara Zanatta potrà commentare. Manfredo. Ciao Gianluca, ti volevo ringraziare per il libro infame, per la bellissima dedica e soprattutto volevo dire, a me la donna del fumetto che mi piace di più in assoluto è Lubna, la fidanzata di Rank Xerox. È uno dei fumetti più dimenticati e più maledetti e più profetici. Rank Xerox è questo cybereroe, cyber coatto, esatto. Mezzo uomo, mezzo macchina, che vive in una Roma fatta a più strati, con 70 esatto. metropolitane, fatta di cattivissimi. Come Roma, cioè a vari livelli, sembra quasi un po' Dick, Philip Dick. E c'ha questa Lubna che è una ragazzina giovanissima, lussuriosa, pessima, cattivissima. Una tredicenne sfrontata, con tutta la sfrontatezza dei 13 anni, e però la consapevolezza del proprio potere nei confronti del coatto che che gli fa fare le peggio cose proprio, lo tratta a pesci in faccia, però lui con il suo cervello elettronico tirato fuori da una fotocopiatrice è innamorato folle. Ogni tanto lei prima di usufruirne, diciamo, le cyber virilità, gli apre la calotta cranica col saldatore, gli rimette a posto i circuiti, ci sono delle scene molto belle. Lui si fa le pere di Vinaville, ma è geniale, c'è proprio una scena in cui lui aveva perso il cervello, diciamo, tra virgolette, e lei glielo risalda, è mezza nuda su di lui col saldatore che gli lavora sul cervello, gli mette un coperchio di una scatola di biscotti. Sì. Lo riattiva e c'è proprio il disegnino di lui che fa il disegnino del fallo, che la piglia proprio di peso per la mano e lei è tutta contenta, insomma. È la stessa scena che avevo appena detto io, è quella che rimane più colpita. Melog 2.0. Valentina. I tratti fisici di Valentina sono ispirati alla fisionomia dell'attrice statunitense Louise Brooks, che negli anni 20 conquistò il mondo cinematografico atteggiandosi a donna fatale nell'interpretazione del personaggio di Lulu. Valentina è forse l'unico dei personaggi della storia del fumetto italiano di cui sappiamo tutto, al punto di vedere la sua carta d'identità. È nata il giorno di Natale del 1942. Come conseguenza di ciò, Valentina cresce e invecchia come qualsiasi persona reale. Valentina è una fotografa con problemi reali, in particolare l'anoressia. Nella sua adolescenza appare patologicamente magra. Incubi e deliri immaginari e folli, psicanalisi, mostri, sogni e allucinazioni. Valentina è spesso raffigurata nuda, a volte sensuale, quasi sempre in contesti feticisti. 800240024, stiamo parlando delle donne del fumetto, che è il libro di Sara Zanatta, Samantha Zaghini, Eleonora Guzzetta, che è uscito per edizioni Tunuè, che fa una carrellata di universi femminili rappresentati nei fumetti. Stiamo ascoltando i nostri gentili ascoltatori, i loro ricordi, le loro suggestioni, e vedo che alla fine è ben chiaro il riferimento femminile nelle letture infantili, nei fumetti. È ben chiaro anche quello che è stato il riverbero, la possibilità di ponderare, di considerare, di classificare poi donne reali e concrete in queste prime categorie del fantastico femminile. Sara Zanatta, rispetto a quello che hanno detto i nostri ascoltatori prima che dessi la linea alle informazioni della borsa. Ma è divertente collegare un po' i ricordi dei consumatori a quelle che poi sono state le esigenze della ricerca. Sicuramente soprattutto sentire gli uomini e il loro punto di vista. Esatto, perché poi c'è una sensibilità completamente diversa. Cioè, anche mi aspettavo il fatto che Valentina non potesse essere amata. O piace più alle donne, Valentina. Guardi che esatto. Non ha mai dato grandi palpiti a noi maschi. Molto di proprio in occasioni in cui, ecco, il catalogo del Postal Market non era più disponibile, sennò proprio. Non a caso, tra l'altro, una delle storie che io preferisco è quella in cui viene raccontata e rappresentata la maternità, che è un racconto super poetico. Che piace alle donne, però gli uomini. Esatto. Cioè, fanno gli esorcismi e tirano fuori gli amuleti quando sentono parlare di maternità, e questo lo puoi immaginare. Soprattutto in un'età in cui. Il primo terrore legato appunto alla scoperta dell'aspetto sensuale, fisico e amoroso, proprio quello che qualcuno rimanga incinta, lei pensi un po'? No, però direi che era stata tirata fuori la categoria delle donne degli Stati Uniti come ponte, insomma, tra i fumetti Disney e poi le coprimarie di Tex & Co. Il problema è che in Italia arriviamo un po' tardi in generale in tutto, e quindi probabilmente anche in questo. Quindi infatti era una punta molto avanzata quella di cui parla il nostro ascoltatore. In quel tempo si leggeva appunto Capitan Black, il Capitan Mickey, il Grande Black, Zagor, che donne mi pare in questo settore ce ne fossero veramente ben poche, o sbaglio? Sì, anche in America molte, e la maggior parte, erano coprimarie. Diciamo che la ridefinizione dei ruoli avviene in modo più progressivo e non in modo poi adesso dirò una bestemmia, ma io ho sempre sospettato che sia Zagor che Black fossero gay. mi sembrava palesissima, lei con quel gileino di pelle con le braccia nude, Zagon con quella toppa sui pantaloni, non si capiva bene, tutti questi sfrangiamenti, erano un look un pochino frivolo per essere dei combattenti della foresta, o sbaglio? No, è probabile, insomma, non mi lancerei in un commento quasi profano, però è probabile che fosse così. Però è curioso il fatto che nessuno abbia parlato dei personaggi di Manara, ad esempio. Quindi forse qui ci ricolleghiamo un po' a Valentina e Crepax, magari è uno stile che piaceva. Sì, molto raffinato e molto erotico autore. Fra l'altro, pochi lo sanno, i famosi porno soft fumetti delle nostre diottrie perdute furono anche disegnati da Manara. Da lui, sì. Infatti i collezionisti veri vanno sempre a caccia di quei fumetti ignoti che lui ha disegnato prima di iniziare a disegnare, insomma, quelli più celebri, come dire. E lì c'è un tipo di erotismo completamente diverso, cioè del tutto liberatorio, un eros e un sesso che non vanno castigati. Sì, però sdoganato, patinato, celebrato, capito? Erano molto belle, sono molto belle donne di Manara, indubbiamente, ma non c'è quella patina di rubare qualcosa al mondo della dignità e del decoro guardando le donne d'arte. Questa è sempre una visione schifosamente maschile la nostra, ma si contrappone giustamente a quello che queste studiose femminili. Vorrei sentire un attimo Mauro, se permette. Mauro? Sì, pronto. Ecco, si inserisca. Ma, niente, oltre a concordare con voi sul discorso di Manara, per non parlare di Tamburrini, di tutti i mitici degli anni 70, in Italia mi veniva in mente, siamo riusciti a contaminare un genere e fare del fumetto e del fotoromanzo una cosa molto particolare che è durata poco, non so se lei la ricorda, che era Super Sex e Sexy Belle. La ricorda? Oddio mio, Super Sex, ma non era un fotoromanzo fumetto? Era un fotoromanzo che traeva spunto da tutti quei mix fantascientifici dove poi una generazione ci ha smanettato sopra. Ma quello di Gabriel Pontello, quello lì. I Fish Chen Chen. Sì, ma non è un fumetto, però era una specie, era un fotoromanzo, sì. Sì, era un fotoromanzo, è entrato in categoria subito dopo il genere. Però con i fumetti ha poco a che fare, era, diciamo, un escalation necessario per passare poi ai primi VHS, però. Esatto, una contaminazione che veniva subito dopo generi come Lando, cosa del genere, molto poi peccoletti. Mentre c'era ancora qualcosa di carezzevole, di fanciullesco, di legato comunque a immaginari divertenti, lì già cominciamo a sfociare in un altro tipo di caratteristica, di stampa specializzata, non per uso di lettura ma per uso promiscuo, era quello l'uso. Quindi ritorniamo al campo del fumetto. Sì, beh, sicuramente il fumetto, a me piaceva tantissimo il discorso che faceva prima l'ascoltatore su Hank Ferox, che come fumetto di genere era fantastico. E mi è sembrato molto strano che il cinematografo non lo abbia ripreso. Magari. Guarda, ci provarono Tamburini e Liberatore a fare un film, ma non riuscì mai a decollare. È strano che era il più avveniristico, il più fantastico dei personaggi di quella generazione di Frigidaire, quello che sarebbe oggi più attuale, ma è sempre stato visto un grande sospetto anche dall'intelligenza ufficiale di sinistra, perché c'era qualcosa che non quadrava negli schemi più convenzionali in Rank Xerox, quindi l'hanno sempre tenuto un po' a distanza, forse perché era coatto, la coattaggine non viene considerata un valore se non da un punto di vista di osservazione di qualcosa da redimere o da educare. Rank Xerox era assolutamente irredimibile e ineducabile, anche perché era una macchina. Sentiamo Anna, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io volevo portare la mia testimonianza in questo dibattito dicendo che fin da piccola sono stata abituata a leggere i fumetti, Tex, Vacante, Diabolique. Non dica eccetera. Diabolique, guardi, mi trema. Diabolique. E poi? Io trovo che la figura di Eva Kant, per esempio, sia, come hai detto tu prima, è molto fredda, anche se bellissima, però anche antifemminista, perché io ho incontrato successivamente la figura di Mafalda, no? Ah, sì. Innamoratissima del suo uomo. Però è un argentino l'autore, mi pare. Ho fatto anche un quadretto. Un quadro dipinto su Mafalda davanti si sta autodecomponendo la signora mentre parla. Molto velocemente, Sara Zanatta, non so se Mafalda è fra le persone che lei, il personaggio di fumetti che lei ha analizzato. A me non entusiasmava molto, dire, è una capocciona ragazzina antipatica, però probabilmente... Diciamo che è un'altra categoria che forse abbiamo saltato, quella delle bambine ribelli. Sì. Sono un po' le bambine di Schulz. Peanuts, no? Sì. Mafalda nasce in Argentina, e in un'Argentina tormentata dai conflitti interni, con rapporti difficili con gli Stati Uniti, ed è un personaggio, a me piace molto perché... gioca con gli amici al Parlamento, fa interrogativi sproporzionati rispetto alla sua età, cioè il padre tipo che si vorrebbe sparare tutte le volte che la figlia gli fa certe domande, ad esempio celebre la vignetta in cui lei gli si piazza davanti e gli dice: ma papà, spiegami questo pasticcio del Vietnam, no? Ed è una bambina che è capace di odiare il razzismo e la minestra allo stesso modo, è una che ha fatto un po' dell'utopia di migliorare. Però sono tutta una serie di fumetti che mi darà atto lei, che sono molto legati a un certo trend ideologico. Esaurito, scomparso, dissolto, rinnegato questo, rimangono a me in una sorta di armadio come reliquie, difficilmente assimilabili a esperienze coerenti e correnti. Ho questa impressione io, almeno, con tutto il divertimento di poterla vedere tutto. Era un fumetto ideologico, mentre le altre erano meno ideologiche, erano più legate a disvalori, se vogliamo, ma assoluti. Mafalda, i fumetti di Schulz e tutti gli annessi connessi erano molto legati a una visione della vita che, scomparsa e non più condivisa quella, rimangono così come clandestini, come esuli senza più patria. Melog 2.0. Giulia è una giovane donna che vive e lavora a Garden City, un'immaginaria metropoli americana. Fisicamente assomiglia ad Audrey Hepburn, alla quale si sono ispirati gli autori. La sua professione principale è quella di docente di criminologia alla Holyoke University, ma si trova spesso a collaborare con la polizia e la procura in caso di indagini che richiedono la sua consulenza. Julia Kendall è stata definita dai suoi autori una indagatrice dell'animo. Julia è infatti dotata di un'umanità e sensibilità straordinarie che le permettono, più delle sue pur notevoli capacità speculative, di entrare ed immedesimarsi nelle menti dei criminali, riuscendo così ad intuire e prevedere le loro mosse e assicurarli alla giustizia. Beh, devo dire che quest'ultimo personaggio, sempre di Bonelli, la criminologa che è stata evocata da questa scheda, corrisponde a quelle che sono le sollecitazioni più vivaci che vedo fare sia su Facebook sia dall'ascoltatore Gioacchino che sta al telefono. Gioacchino, buongiorno. Buongiorno. Anche lei segna un suo percorso di osservazione di donne del fumetto che finisce con Giulia. Così. Dunque, per quello che ho ascoltato prima, mi veniva in mente appunto che tutta una categoria di donne del fumetto era stata un po' tenuta in secondo piano. Ma è infinita, è smisurata. Noi stiamo cercando, la lambiamo soltanto oggi. Non abbiamo pretesa di essere esaustivi. No, certo. Beh, per esempio, Berardi è stato uno straordinario raccontatore, diciamo, dell'universo femminile. Prima ancora di Giulia, io citerei anche Ken Parker, indimenticabile e purtroppo ormai dimenticato fumetto straordinario, in cui appunto il personaggio era uno dei primi antieroi, nel quale comparivano tutta una serie di donne, diciamo, quando lui rimaneva sullo sfondo, ecco. Però volevo aggiungere una cosa. Anche lei ha fatto due nomi di fumetti che mi fanno palpitare: Monello e Intrepido, non l'abbiamo mai citati finora. Esattamente, l'Intrepido e il Monello, ma poi anche un'altra cosa volevo aggiungere, anche rispetto a quello che ha detto la professoressa, in Tex, all'inizio, soprattutto nei primi 50-60 numeri, l'universo femminile era straordinario, al contrario di quanto poi succede in seguito. Cioè Lilith era soltanto il punto d'arrivo di tutta una serie di indiane, soprattutto indiane, ma anche americane, che popolavano il suo immaginario e la sua vita. Ecco, Tex, ma io lo ricordo sempre molto schivo, Tex, anche su lui. C'era questo alone di non eccessivo entusiasmo per il genere femminile, poi alla fine si... E questo è il secondo text, però. Se leggiamo i primi numeri, noi troviamo un universo davvero incredibile di donne, di cui appunto Lilith, che lei ha citato prima, sì, cioè ma la sua... Da Lilith in poi, penso, tutte le pelle rosse, quando si avvicinava Tex, Lilith in poi Tex diventa... Invocavano Manitou e i loro dei protettori, perché quella è schiantata quasi subito, diciamo. Sì, quella è schiantata quasi subito, e le donne poi diventano invece le comprimarie di suo figlio, cioè Kit Wheeler, e del suo pard Kit Carson, in sostanza, ecco, che... e poi dopo ci siamo dimenticati probabilmente anche tutte le donne di Dylan Dog. Sì, cioè, Dylan Dog, ce ne saranno un'infinità. Dylan Dog, sì, ma Monello Intrepido, che lei ha citato, era quel fumetto fantastico in cui c'erano già, diciamo, delle storie che anticipavano vari filoni che poi diventarono celebri e celebrati, ma in cui c'erano anche le pubblicità degli occhiali a raggi X e della crema per farsi crescere il pelo sul petto villoso. Quindi non dimentichiamo che era anche un oggetto che univa la rappresentazione visiva con accessori concreti per poi trasformare il sogno in realtà, o almeno ci si provava. Sentiamo Max. Max, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Scusate se io... c'è il navigatore, c'è la donna del navigatore che la sta accompagnando. La donna del navigatore che parla. Scusa, adesso mi infilo da qualche parte. Ma io intanto subito volevo fare un piccolo riferimento a Tamburini e a Raxerox, e al fatto che oggettivamente anche a livello stilistico Terminator deve moltissimo di Cameron, è sostanzialmente una citazione mai confermata, però deve moltissimo al Rank Xerox di Tamburini. Sì, è vero, è vero, sì. Anche perché all'epoca Tamburini aveva anche fatto diverse copertine, almeno una che io ricordo perché ho di un disco di Frank Zappa, quindi era comunque un artista conosciuto a livello internazionale, anche se in anni appunto in cui di meno globalizzazione. In realtà io volevo fare riferimento, torno un po' indietro nel tempo, a un personaggio che è stato poco citato, mi sembra, da questa trasmissione, che poi è Criminal. Rispetto agli Aboli, che era tutto molto diverso, il mio ricordo personalmente, per esempio, delle donnine è proprio quello dell'abbigliamento intimo delle donnine che disegnava Magnus in Criminal. In particolare c'è un episodio che mi sembra che si chiami, vado a memoria, Fuga dal riformatorio o qualcosa del genere, in cui una di queste ragazze di questo riformatorio molto avvenenti fugge e viene trafitta praticamente da una cancellata mentre fugge da Criminal. E c'è questa scena in cui rimane lei a penzoloni con una trafitta da questa... da questa cancellata con questa mutandina di pizzo rese con particolare dovizia. Si vuole che Magnus anche su Dylan Dog ogni tanto quando tracciava caratteri femminili, erano sempre caratteri femminili molto estremi, ma infatti poi quando ha fatto, è passato anche lui al fumetto erotico, toccò l'apice. Sara Zanatta, autrice delle donne del fumetto, vediamo, ci segnalano continue lacune, ma l'universo è infinito, voi avete scritto un libro che è quasi una piccola enciclopedia, quindi integriamo laddove è possibile integrare. Questi personaggi poi compaiono tutti nel libro, ovviamente è difficile riprenderli tutti insieme. Il discorso che faceva Gioacchino, se non sbaglio, su Tex è correttissimo, perché Tex ha subito anche un'epurazione dal punto di vista editoriale, quindi nelle seconde e terze ristampe molte scollature sono state risistemate, hanno messo i braghettoni anche a Tex, pensi un po'. Sì. Sì, sì, e quindi sì, è correttissimo quello che è stato detto, che il primo Tex, ovviamente sì, la donna era sempre coprimaria, ma c'era quantomeno un'interazione più vivace. E poi niente, volevo ricollegarmi allo spezzone su Giulia, visto che ognuno ha portato il proprio personaggio preferito, anch'io in chiusura vorrei portare il mio, cioè nel senso che il mio amore per i fumetti è nato da Giulia, e anche l'idea di questo libro è nata proprio con lei. E mi fa piacere perché vedo che è condiviso, mi scusi che l'ho bloccata, ma la sigla vuol dire che devo mollare subito la linea, condiviso con gran parte di ascoltatori, soprattutto quelli che si stanno esprimendo su Facebook. Grazie Sara Zanatta, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.